Ho letto un bellissimo libro in merito al matrimonio e famiglia nell'Antico e nel Nuovo Patto e mi ha sensibilmente toccato la parte riferita allo Stato e al ruolo dei figli nella casa. Forse la cosa non mi avrebbe toccato più di tanto se non fosse che proprio in quei giorni nel leggere in un periodico, datato mercoledì 1 agosto 2007, diceva che molti bambini da 10-11 anni hanno già avuto la loro prima esperienza con droga e alcol. A rivelarlo sono stati i risultati del progetto finanziario dal Ministero della Solidarietà Sociale, realizzato dal Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano, che ha coinvolto 4.569 studenti di tutta Italia, con età compresa tra i 14 e i 18 anni. I risultati sono allarmanti: il 32% dei ragazzi che hanno compilato il questionario ha ammesso di bere, all'età di 10 anni, ma il 61% afferma di non conoscere i danni conseguenti, il 32% all'età di 11 anni ha fumato hashish almeno una volta e di questi il 16% ne fa uso giornaliero, il 7% ha usato altre sostanze stupefacenti dai 10 anni e il 46% continua a farne uso. Il 77% dei ragazzi ha usato droghe per curiosità, mentre il 13% era ubriaco e agiva senza rendersene conto. La droga preferita resta il cannabis, seguita da popper 20%, una sostanza inalabile a base di gas. E poi cocaina e allucinogeni come l'LSD, 17%. Mentre i maschietti preferiscono quest'ultimi, le femmine gradiscono di più la cocaina perché toglie la fame, così aiuta a dimagrire. Il 74% ha confessato di non conoscere i danni arrecati alla salute. Molti le considerano sostanze terapeutiche, il cannabis per rilassarsi, l'eroina per non sentire dolore, l'anfetamina per non mangiare. Un dato importante e significativo è che l'86,7% dei ragazzi che vive con entrambi i genitori non usa droghe. Anche se è passato del tempo, le cose non sono certamente migliorate. Perciò parlare di figli è più che opportuno e doveroso perché, se non assumiamo il solito e comodo atteggiamento di scaricare le responsabilità altrui, tutti siamo chiamati in causa. Sono chiamati in causa per prima cosa i genitori, perché ho la profonda convinzione che i figli molto spesso arrivano dove i genitori permettono. Com'è anche vero che spesso il carattere dei figli è il risultato dei difetti dei genitori, e poi sono chiamati in causa gli educatori come ogni altra persona in autorità perché un atteggiamento sbagliato nei confronti dei bambini è una porta aperta ad ogni malsana attitudine. Inoltre, questi dati hanno messo in evidenza l'influenza che esercita sui figli una coppia unita. Potesse questo solo aspetto indurre i coniugi a non pensare al divorzio o ad una separazione. Che cosa diceva il libro da toccarmi sensibilmente? Probabilmente niente di particolare e di sconosciuto, ma poiché il tempo e la moda cancellano anche le orme più marcate, forse tutto è nuovo, o almeno da prendere sul serio, visto l'andamento delle cose. Il libro rimarcava che la Bibbia, nella parte relativa all'Antico Patto, non dà un rilievo particolare ai vari stadi della vita di un figlio. Nell'originale ebraico del libro dei Proverbi, per descrivere un figlio sono usati termini che indicano un giovane dipendente dalla madre e dal padre, verso i quali egli è anche responsabile. Inoltre, è visto come un adolescente avanzato che necessita di una preparazione in vista dell'età matura. Oppure il figlio è visto come un semplicione, una persona ingenua, uno che può essere facilmente adescato da idee di qualsiasi tipo, la cui mente non è allenata a distinguere la verità dalla menzogna, e di conseguenza bisognoso di una guida. Sempre secondo la parola di Dio, il figlio in genere è fondamentalmente uno spregevole schernitore, un beffardo, che ostenta arrogantemente il suo degrado morale prendendosi gioco della sapienza e dell'insegnamento, e perciò deve essere umiliato, come pure visto alla maniera di un imprudente, una persona ottusa e insolente, insensibile alla saggezza e ostinato nelle sue vie. Infine, il libro dei Proverbi vede il fanciullo come un incoerente e un insensibile, uno che manca di buon senso e deve essere disciplinato, o è visto come un idiota, uno che è moralmente poco intelligente e anche sciocco, ottuso, lento a capire. I termini usati per i figli, termina l'autore del libro Bita e Manta, dimostrano che dal punto di vista intellettuale, morale e spirituale, gli israeliti ritenevano lo stadio giovanile dell'essere umano fondamentalmente contaminato. Infatti, la gioventù era vista come un ciclo della vita di poco pregio, privo di discernimento e di buon senso. Perciò, di norma, il giovane veniva preparato alla vita, gli si insegnava l'accortezza, la comprensione letteraria, l'integrità morale, gli si fondeva competenza nell'esercitare un mestiere e lo si portava alla comprensione dei misteri della vita. Ma per raggiungere questi traguardi, le volontà testarde dovevano essere infrante, le menti ingenue. Abbisognavano di un complesso di elementi per valutare le idee, i cuori induriti dovevano essere inteneriti e l'individualismo doveva essere sostituito dal senso di partecipazione e di impegno nei confronti della comunità. Un quadro questo del giovane che fa molto riflettere. Se siamo onesti, la prima reazione di fronte ad una drastica opinione del genere ci irrigidisce perché, per quanto i figli nella loro gioventù siano un pochino scapestrati, in fondo li riteniamo e li guardiamo comunque con simpatia e benevolenza, colpevoli solo di essere giovani. Ma un atteggiamento del genere molto probabilmente serve per giustificare la realtà della nostra insensata e testarda gioventù. Al giorno d'oggi riguarda un giovane che non combina nulla di buono fino a 30 anni. Si sente dire sempre più spesso che almeno non si droga e non è un delinquente. Questo dimostra l'opinione che abbiamo dei giovani quali vivono con una perfetta complementarietà fra la posizione protettiva dei genitori e quella di privilegio richiesta dai figli. E che cosa ne deriva? Spesso una forma patogenea di relazione che ritarda o blocca il naturale percorso evolutivo del giovane, il quale per rendersi autonomo deve essere in grado di assumersi le sue responsabilità. I psicologi hanno individuato una serie di modelli sbagliati di relazione fra genitori e figli, da quello sacrificante, cioè i genitori si sacrificano costantemente per dare il massimo ai figli, a quello delegante, nel quale i genitori lasciano ad altri meno nonni e insegnanti meno il proprio ruolo, oppure una relazione democratica, nella quale i genitori sono amici dei figli senza la esercitare una deresponsabilizzazione dei figli e favorire la delinquenza in ogni settore. Continuando a vedere i nostri giovani figli solo come vittime della società e guardiamo le loro marachelle con simpatia, i responsabili del loro futuro siamo noi. Dobbiamo guardare in faccia la realtà. Quando per un periodo di tempo dei giovani lanciavano sassi dai cavalcavia delle autostrade producendo a volte anche la morte, le madri, ricevendo notizia dell'operato dei loro figli, rimanevano scandalizzate e ripetevano: «Questo non è mio figlio, non farebbe male ad una mosca». Chi conosce veramente il proprio figlio? Come dico spesso, l'unico difetto di una mamma è essere mamma. E in fondo tutti abbiamo un cuore di mamma, cioè tutti vediamo nostro figlio sì non perfetto, ma non uno che può essere facilmente adescato da idee di qualsiasi tipo, non uno potenzialmente spregevole e schernitore, con un'inclinazione ad essere beffardo, non una persona inclinata ad essere ottusa e insolente, non insensibile alla saggezza e ostinato nelle sue vie. Può anche darsi, meno pensiamo noi, meno che non sia uno dei migliori, ma certamente non come lo descrive la parola di Dio. Autorevolezza. Sono proprio queste relazioni favorire certa a. Nonostante questa visione apparentemente pessimistica, la parola di Dio considera i figli come un dono dell'eterno Dio. Infatti così si esprime con il linguaggio tipico della cultura ebraica del tempo. Ecco, i figli sono una eredità che viene dall'Eterno. Il frutto del grembo è un premio, come frecce nella mano di un prode. Così sono i figli della propria giovinezza. Beato l'uomo che ne ha la sua faretra piena. Essi non saranno confusi quando discuteranno coi loro nemici alla porta. Esselle 127.3. Anche se è vero che qualche figlio prende una strada insensata, come i dittatori o estremisti, la storia è cosparsa di uomini che hanno fatto un bene immenso all'umanità. Penso a Beethoven, il grande musicista che era il nono figlio di una donna ammalata di sifilide, con tre fratelli sordi, due ciechi e uno ritardato. Chi non avrebbe consigliato a questa povera donna di abortire? Penso a Franklin D. Roosevelt che consultava gli astrologi. Il suo nome veniva associato a quello dei politici. Corrotti. Ha avuto due amanti. Fumava una sigaretta dopo l'altra e beveva da 8 a 10 martini al giorno. Come penso a Winston Churchill, che fu licenziato dal lavoro due volte e faceva uso di oppio all'università e consumava un quarto di bottiglia di whisky ogni notte. Certo, questi tre uomini non li avremmo certamente voluti al mondo, chi per un motivo, chi per un altro, eppure, senza la loro esistenza, la storia del mondo avrebbe avuto un altro percorso. Questo dimostra che non sta a noi decidere chi deve vivere o morire, perciò tutti i figli sono un dono dell'Eterno Dio. Anche perché, soprattutto considerato dal punto di vista cristiano, Dio arricchisce i credenti e l'umanità in modo sofferto, sia che la sofferenza sia giusta o ingiusta. Dare alla luce un figlio è molto più di una semplice procreazione, ma è un co-creare, un collaborare con Dio nella creazione di esseri fatti alla sua immagine. I figli dunque vanno considerati sempre delle ricchezze particolari, dei doni misericordiosamente concessi alla coppia, e chi ne è consapevole avrà sempre un cuore riconoscente verso Dio, soprattutto perché sono i primi ai quali è possibile parlare del timore di Dio. Infatti la parola di Dio ordina, inculca al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. PR 22.6. Se poi in seguito diventano figli di Dio, allora la gioia di averli generati, partoriti e educati sarà doppia perché non vi è nulla di più importante e duraturo che avere dei figli spirituali. Godiamo la gioia dei figli naturali, ma soprattutto cerchiamo di avere dei figli spirituali perché questi li troveremo con sicurezza in cielo. Ottobre 2007. Pellero,